87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la radio di chi se la sente e la voce dei senza voce. Potete contribuire a farla vivere sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio www.ondarossa.info. sulla homepage c'è l'opzione Sostieni per la modalità PayPal. Siamo a Visionari, il consueto appuntamento del cinema a Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta la trovate sul sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari, oppure su Facebook alla voce sempre Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E ritroviamo Sergio Basso, regista del film Amori Elementari, uscito in sala il 20 febbraio scorso. Sergio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao Federico, grazie mille. Allora, questo passaggio dal documentario al cinema di finzione come nasce? Beh, dalla voglia di raccontare un tema molto preciso come la comparsa dell'amore nell'essere umano verso i 10 anni, quando eravamo bambini. Penso che sia una storia universale e di solito mi lascio condurre dai temi per decidere che tipo di film fare, a che genere dedicarmi, e molto presto con le sceneggiatrici siamo resi conto che era una storia per un film e non per un documentario. Mm-hmm. Anche se poi per scriverla sono passato attraverso processi simili a quelli di un documentario, per cui talmente tante, penso un 500 interviste a bambini italiani e russi, quindi sarebbe divertente un giorno farne un documentario a sua volta sullo stato dell'arte dell'amore in Italia e in Russia. Senti Sergio, allora raccontiamo anche un po' in breve come il tema del film, come lo racconteresti? Sono 6 amici per la pelle, alle prese con l'amore per la prima volta, quindi sono coppie che si mettono assieme, che scoprono un po' come l'isola degli schiavi di Malibu, e mescolato a una grandiosa avventura, perché una nuova arrivata semina il caos emotivo, no? Tra tutti, e in più un amuleto formidabile viene perso nei ghiacci delle Dolomiti, e i 6 amici che praticano il pattinaggio sul ghiaccio e che per recuperarlo hanno la pazzesca idea di tornare alla radice di quell'amuleto fra le steppe della Russia. Quindi c'è una fuga fra i ghiacci, di ghiaccio in ghiaccio. Senti, due sono le caratteristiche apprezzabili secondo me del tuo film. Da una parte il punto di vista è proprio sembra proprio adolescenziale, l'ottica sembra proprio adolescenziale, e dall'altro la sintassi proprio cinematografica non percorre la narrazione, non è lineare ma ha delle ellissi, degli intermezzi, delle parentesi, che anche questo sembra anche un linguaggio in formazione tipico dell'adolescenza. Sì, beh, è così. Maini potrebbero dire, chi mi conosce potrebbe dire che a acquisire l'ottica di un bambino ci metto poco, dato che sono alto 1,67. È così, c'è preso, è stato è frutto di un esperimento questo. Cioè, in molti film si parla di tarda infanzia e adolescenza. Raramente questi film sono per la tarda infanzia e l'adolescenza. Sì, cioè, sì. Si parla un po' di quell'età per ammiccare agli adulti, e si fa un film solo per gli adulti con una sintassi adulta, dove l'infanzia è un gancio molto forte. Non sto dicendo che questo processo avvenga con malizia, però avviene. Mm-hmm. E io ho pensato che se dovevamo parlare di amore a 10-11 anni, io sarei stato ben lieto di incontrare quel pubblico, cioè di raccontare una sorta, che non era una fiaba, alla Gianni Rodari, no? Sì, in letteratura ci abbiamo fior di antenati, per così dire. Quindi perché non sperimentare nella stessa direzione al cinema? A me sembra che sia stato fatto così poco, c'è molta paura a fare film per l'infanzia in Italia, anche a distribuirli, quindi l'ho trovato un grandissimo privilegio di avere questo colpo in canna nell'immaginario. Senti Sergio, uscito in sala un paio di settimane fa, ti volevo chiedere in quante copie e che primo bilancio ne stai facendo? Guarda, è uscito in una cinquantina di copie, sì, in tutta Italia, ci ha creduto, è distribuito da Academy 2, assieme al circuito UCI, sta andando abbastanza bene. Tu sai bene che vengo dal cinema indipendente e tornerò al cinema indipendente, anche questo è un film indipendente tutto sommato, però sono stato ben lieto per una volta che una distribuzione credesse nel film ancora prima che iniziassimo a girare, praticamente prima che iniziassimo a girare. Mm-hmm. Trovo che sia sano tutto sommato, no? Certo. Nella buona o nella cattiva sorte, però la distribuzione è libera di avere le sue politiche distributive, ad esempio non è facilissimo. A volte non è facilissimo in alcune città vedere il film perché le sale UCI non sono in centro di città e gli orari non sono facilissimi, però non mi lamento affatto, anzi sono contentissimo, perché vuol dire sempre avere 50 possibilità di raggiungere le persone al giorno, quindi lo trovo una fonte d'ossigeno, insomma. Sì. Senti, per avere informazioni sia sul film che sulla tua attività ci dai dei riferimenti internet? Sì, allora, il sito del film è www.amorielementari.it, oppure anche su Facebook, basta cercare Amori Elementari, c'è una pagina Facebook ricca di indicazioni su le date, le sale, la ricezione critica, le interviste, i backstage e così via. Poi io ho un mio sito che è www.teatraz.org, dove queste altre informazioni su anche i miei prossimi progetti si possono trovare. Sergio, io ti ringrazio, è stato nuovamente un piacere, spero a presto. Federico, grazie mille. Alla prossima. Adesso abbiamo in canna un musical documentary in un campo profughi in Nepal. Bollywood entra in campo profughi, quindi quest'autunno ci ribecchiamo di sicuro. Pensa te, bene, bene. Non vedo l'ora. Abbraccio. Ciao. Ciao, caro. Sergio Basso, regista del film Amori Elementari, uscito in sala il 20 febbraio scorso. È con noi Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna per parlare dell'uscita in sala lo scorso 3 marzo del film restaurato La Grande Illusione. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Allora, si diceva poco fa, parlando anche con altri della Cineteca di Bologna, del destino tribolato di questa pellicola alla sua uscita. Sì, infatti il film fu un successo di pubblico in Francia nel 37, però subito vennero tagliate alcune scene, già nella prima versione francese, dove si alludeva alle malattie venere di cui soffrivano i soldati, e poi soprattutto fu in Italia e in Germania che venne proibito, nonostante che la mostra di Venezia avesse vinto il premio per il miglior complesso artistico, che poi fu un premio così arrangiato, inventato lì, per evitare di dargli la Coppa Mussolini, che naturalmente, essendo un film più sgradito al regime, sarebbe stato assurdo, insomma, sarebbe stato. Ecco, quindi il film fu proibito in Italia e in Germania, e poi uscì anche tagliato, pesantemente tagliato, in Giappone e in Ungheria e in altri paesi, mentre fu un trionfo negli Stati Uniti. Poi praticamente sparì il negativo originale, che lo stesso Renoir, insomma, si dannò dopo la guerra per cercare di ritrovare. Lui poi curò una versione il più possibile completa, però in realtà era incompleta nel 58, dopo che erano state tagliate ulteriori scene, e avevano voluto eliminare tutte le scene in cui i tedeschi venivano presentati in una luce positiva, questo subito dopo la guerra, ed è finalmente, tutta questa avventura si conclude quando la Cinémathèque di Tolosa scopre che a Mosca hanno il negativo originale, cioè questo negativo era arrivato addirittura fino a Mosca, in realtà l'aveva trafugato l'Armata Rossa, che l'aveva trovato in Germania, l'aveva trovato a Berlino, visto che i tedeschi, i nazisti, avevano l'abitudine di razziare le opere d'arte dei paesi che conquistavano, e fra queste anche il negativo del film di Renoir. E quindi finalmente, quando a metà degli anni 60 viene trovato il negativo originale, da lì poi si è potuto scambiare, quindi i francesi lo hanno riavuto indietro, e e si è arrivati finalmente a un primo restauro del 97, poi a questo restauro definitivo del 2011, curato appunto dalla Cineteca di Bologna, dall'immagine ritrovata con la Cinemateca di Tolosa. Oh, Roberto, come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta? Ma questa è una delle tante avventure del cinema, cioè delle edizioni integrali dei film che divengono oggetto in realtà di in sostanza un film come La Grande Illusione, che è il simbolo del pacifismo, che è un film che in realtà riflette proprio la cultura e il pensiero umanista, profondamente umanista di Renoir, diventa in sostanza il pomo della discordia, diventa un oggetto scomodo in un momento in cui invece tutti, cioè le dittature, hanno la volontà e il disegno di promuovere una propaganda bellicista, una propaganda razzista. Essendo il film invece antirazzista e antiguerra, antibellicista, questo spiega senz'altro il fatto che sia stato così tormentato, ecco. Oh, secondo te, il tuo punto di vista, che lo hai seguito così da vicino, penso anche con parecchia passione, quali sono le caratteristiche che lo rendono immortale? Beh, innanzitutto questa così il miracolo di riunire che sia un'opera, un film, La Grande Illusione, che riunisce il geni diversi, grandissimi talenti, a cominciare da quello di Jean Renoir. È un film proprio decisamente esemplare della scrittura di Renoir, di questa sua capacità registica di rendere vivi i personaggi, di farli muovere sullo schermo con una naturalezza e dando però anche tutta la loro complessità, la loro contraddizione di essere umani. Questo poi c'è il grandissimo talento di attori straordinari come Jean Gabin, come Eric von Stroheim, che fra l'altro von Stroheim contribuì anche proprio al disegno del suo personaggio, perché l'ufficiale tedesco, tanti elementi che caratterizzano, rendono così indimenticabile il personaggio dell'ufficiale tedesco, derivano anche dal genio di von Stroheim, dal suo genio come autore proprio. E poi in realtà poi l'elenco può continuare, insomma ci sono Pierre Fresnay, che era un altro grandissimo attore, Carette, Jean Dasté, e poi il direttore della fotografia che si chiama Trass. Insomma, tutti questi elementi vengono a creare quell'alchimia speciale per cui il film è un capolavoro, ecco. Sì, sì, sì. Roberto, in quante sale è uscito in Italia e come sta andando? Ma io credo che stia andando bene, le prime notizie sono molto positive, è bellissimo il fatto che gli spettatori del 2014, soprattutto i giovani, ma non necessariamente i giovani, abbiano voglia di scoprire un film del 37, un film che quindi ha mantenuto tutta la sua vitalità e anzi forse proprio si arricchisce di nuove risonanze. Purtroppo la grande illusione di una pace tra le nazioni è ancora lì, cioè siamo ancora qui a illuderci che non ci saranno più guerre, forse, insomma, e comunque speriamo che prima o poi questa grande illusione si concretizzi. E sì, 70 sono le sale che hanno richiesto il film, siamo molto contenti perché questo progetto sta andando avanti molto bene ed è veramente una sfida culturale che va contro anche a quel degrado che purtroppo è una componente della vita sociale e culturale in Italia, in ambito universitario, in tanti ambiti. Ci sembra che questa sia una risposta concreta. Roberto, a questo punto un abbraccio e a risentirci presto per la prossima novità restaurata della Cineteca di Bologna. Anche a voi, buona giornata a tutti e a presto. Ciao Roberto. Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna sull'uscita in sala lo scorso 3 marzo del film restaurato La Grande Illusione. In collegamento con Giuseppe Bonito, regista del film Pulce non c'è, in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Giuseppe, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, bentrovati. Cos'è questo Pulce non c'è? Raccontacelo un po'. Ah, Pulce non c'è è la storia di una bambina che giusto appunto si chiama Pulce, una bambina di 8 anni, la cui particolarità è che è una bambina che non parla, non solo non parla, è una bambina autistica. È la storia della sua famiglia, suo padre e sua madre, che nel film sono interpretati da Pippo Del Bono e da Marina Massironi, e racconta proprio la vicenda, tutto quello che accade a questa famiglia nel momento in cui sua mamma va a scuola e scopre che appunto Pulce non c'è. Non c'è perché è stata proprio sottratta e affidata a una casa famiglia per ordine del Tribunale dei Minori. Questa famiglia poi scopre il motivo, perché subito non riesce neanche a capire perché, e sembra che insomma da alcune cose che ha scritto questa bambina, usando un metodo particolare che usa una persona autistica, che è la comunicazione facilitata, praticamente sembra che questa bambina abbia scritto delle cose molto gravi sul padre. Quindi il film racconta poi anche un po' il tentativo di questa famiglia di riuscire a dimostrare un'innocenza del padre e a cercare di riappropriarsi di questa bambina. Il tutto è filtrato poi dallo sguardo particolare, perché lo sguardo della sorella maggiore di Pulce, si chiama Giovanna ed è una ragazzina di 13 anni. Giuseppe, come è nato il progetto? Ma il progetto è nato in maniera piuttosto, direi, come dire, classica. Il film è tratto da un libro edito da Einaudi, che ha lo stesso titolo, appunto Pulce non c'è, la cui autrice Gaia Reneri nel libro in realtà racconta la storia della sua famiglia. Io mi sono semplicemente imbattuto nel libro, l'ho proposto al produttore e poi di lì, come dire, c'è stato un percorso piuttosto classico per un film. Oh, per un tema così complicato e anche con tutte le implicazioni che ne sono conseguite, come avete lavorato per la sceneggiatura? Ma la sceneggiatura, la cosa per me fondamentale è stato avere, questa è una cosa di cui non smetterò mai di essere grato, avere proprio il supporto e la collaborazione della famiglia Reneri, che è poi la famiglia di cui si racconta nel film, nonché di Gaia Reneri, che è la scrittrice, la quale ha collaborato anche al copione. Il copione è stato scritto anche con Monica Zappelli. Dopodiché, diciamo, la difficoltà maggiore per me non è stata né durante le riprese, ma nella preparazione del film, perché ovviamente il film, la bambina che interpreta Pulce, per ovvi motivi non poteva essere una bambina autistica. Qui noi su Torino, dove poi dove è ambientata la storia e dove abbiamo girato il film, abbiamo fatto un lavoro di casting molto lungo. E la bambina che interpreta Pulce, che insomma ne abbiamo viste circa 4.000 per interpretare il film, poi ha fatto a sua volta un lavoro di preparazione anche quello abbastanza intenso, diciamo. Oh, informandomi sul film, una delle prime cose che mi è saltata all'occhio è un cast di importanza anche teatrale, da Pippo Del Bono a Piera degli Esposti. Sì, passando per Marina Massironi, sì, che appunto nel film interpreta la moglie di Pippo Del Bono. Sì, è un cast, come dire, su questi attori qui ci siamo proposti noi a loro. A me interessava anche proprio l'idea di accostare due attori, per quel che mi riguarda, altrettanto bravi, ma di provenienza proprio diversa, insomma, perché Pippo Del Bono ha un percorso come dire, di attore, di regista, molto diverso da quello di Marina, che viene comunque molto dalla commedia. Mi interessava proprio una sorta di cortocircuito tra questi due attori, cosa che del resto poi in altre cinematografie avviene in maniera abbastanza, come dire, più consueta rispetto in Italia. Basti pensare che soprattutto nei paesi del nord Europa non è così difficile trovare attori di estrazione comica magari in film drammatici. Lavorare con loro è stato un piacere, posso dire solo questo, insomma. Senti, Giuseppe, presentato e bene al Festival del Film di Roma, volevo chiederti anche il percorso festivaliero, in genere, in senso più allargato, che risultati ti ha portato? Sei soddisfatto? Sì, io sono molto soddisfatto. Noi abbiamo appunto presentato il film all'edizione Festa di Roma, non questa di quest'anno, l'altra ancora, dove devo dire ci siamo trovati bene in un'edizione che non fu particolarmente felice per i film italiani, sì. Tant'è che il film fu dato nella sezione dove era presentato, che era Alice nella città, il premio speciale della giuria. Dopodiché, in attesa di una distribuzione, e ci abbiamo messo più di un anno poi per riuscire ad avere una distribuzione adesso il film è distribuito da Academy 2, come dire, ci siamo presi il lusso intanto di girare per festival e alla fine siamo stati in più di 30 festival in Italia e all'estero, e devo dire che il film, poi la cosa veramente curiosa, interessante direi, anche se paradossale, è che in questo percorso di festival in Italia e all'estero, mentre faticava sulla distribuzione, prendeva quasi regolarmente premi del pubblico il film. E questa cosa mi ha fatto riflettere molto, insomma, devo dire. È anche indicativo, adesso, insomma. Sì, è indicativo di qualcosa. Adesso lo metterò meglio a fuoco, lo metterò meglio a fuoco più là. Però, insomma, ho capito che, come dire, un qualcosa che non va nel nostro sistema cinematografico c'è. E devo dire che poi, insomma, il lieto fine è arrivato anche per noi, perché, insomma, con la distribuzione di Academy 2, e soprattutto perché chi mi riguarda anche molto, cosa di cui sono particolarmente grato e onorato, il sostegno di Nanni Moretti, che ci tiene appunto nel suo cinema famoso, insomma, il nuovo Sacher, alla fine, come dire, ci ha ricompensato un po' di questa lunga attesa. E del resto noi adesso usciamo in anteprima, in esclusiva, al nuovo Sacher, per poi proseguire nel resto delle sale, insomma, il resto d'Italia, insomma, col film. Ecco, proprio a questo proposito, a livello distributivo ti volevo chiedere come sarà, come avete deciso di farlo, nel senso, c'è già un numero di sale che uscirà a partire, in cui uscirà a partire dal 6, oppure sarà un po' a macchia di leopardo con la presenza te in diversi territori per presentarlo proprio dal vivo? Guarda, sarà un po' entrambe le cose, nel senso che ovviamente poi passate queste due settimane di permanenza al nuovo Sacher, stiamo delineando in questi giorni un po' quello, come dire, l'orizzonte che abbiamo davanti. L'uscita che faremo sarà comunque su tutto il territorio nazionale. Sì, penso che usciremo, credo, un po' ovunque, insomma. Adesso stiamo cercando di capire bene le città dove usciamo, insomma. Avete un sito internet per il film e per la tua attività in particolare? Non abbiamo un sito internet, ma come tutti abbiamo una pagina di Facebook che è anche piuttosto semplice da trovare, che appunto basta scrivere Pulce non c'è, il film, insomma, che per noi è un po', come dire, il luogo virtuale dove diamo tutte le informazioni anche riguardo poi le altre sale nel resto del paese dove il film passerà. Giuseppe, perché io, guarda me, no, non tu ce l'ho. No, ok. Allora si può trovare comunque in rete, Pulce non c'è. Giuseppe, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci alla prossima. A presto, e agli spettatori dico che vi aspettiamo da stasera al cinema Nuovo Sacher. Bene, a presto. Grazie. Ciao, arrivederci. Giuseppe Bonito, regista del film Pulce non c'è, in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Prima di passare al prossimo ospite, ci tenevo a segnalare per la rassegna che porta avanti il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, a Via del Trullo, questa sera Vietato Morire, il documentario di Teo Takashi, che abbiamo avuto ospite un po' di tempo fa proprio per parlare di questo lavoro. E quindi stasera alle ore 21 la rassegna del Faro, del centro sociale Ricomincio dal Faro, ha la particolarità di avere film originali in lingua originale sottotitolati, per cui si può sentire anche la voce, soprattutto la voce degli attori sullo schermo, insomma. In collegamento con Diana Dell'Erba, regista del documentario Registe, dialogando su una lametta in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Diana, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito. Beh, mi interessava molto già partire dal titolo, raccontacelo un po', Diana. Sì, allora, Registe 7, il titolo principale ovviamente perché si parla delle registe italiane, delle maggiori interviste, delle maggiori registe che ho intervistato, perciò da Lina Wertmüller, Francesca Archibugi, Francesca Comencini e tante altre. Dialogando su una lametta è un sottotitolo che mi è venuto in relazione al fatto che mi piacerebbe, vorrei che questo discorso non cadesse in un discorso stereotipato, un discorso se vogliamo anche troppo femminista, nel senso che vorrei che si potesse parlare di questo argomento nella maniera più obiettiva possibile. Mm-hmm. Quante sono le autrici che hai contattato? Hanno abbracciato il progetto praticamente tutte le maggiori registe cinematografiche italiane, perciò appunto come dicevo Lina Wertmüller, Francesca Archibugi, Francesca Comencini, la mitica Cecilia Mangini e ancora Vilma Labate, Donatella Maiorca, Cinzia Piaccatorini, tante. Senti, come hai deciso di strutturare il racconto? Questo è un film documentario, perciò vi è una parte di interviste e una parte invece di fiction che fa un po' da fil rouge a queste interviste, che vede Maria de Medeiros, l'attrice che tutti ricordiamo per Pulp Fiction, con interpretare la prima regista italiana, Elvira Notari, che era una regista di inizio fine 800, inizio 900, che ha realizzato tantissimi film documentari, uno più interessante dell'altro, purtroppo pochi giunti ai nostri giorni perché la maggior parte bruciati durante il fascismo. Che ritratto emerge di questo mosaico di autrici al femminile italiane? Il documentario parla sia da, per una prima parte ripercorre proprio a livello storico tutta, sì, tutto il cinema e la regia firmata al femminile, scoprendo paradossalmente che erano tantissime le registe agli esordi e sono meno le registe di oggi numericamente, nel senso che in Italia oggi su 100 registi solamente 7 sono donne, dato che riscontriamo anche in praticamente tutti gli altri paesi, in altre nazioni nel mondo, dato che oscilla veramente di pochissimi punti. Questa è appunto una prima parte del documentario, per poi dare voce appunto invece alle registe odierne, perciò parlare di cinema, parlare se vogliamo anche simbolicamente di cinema, nel senso che se riusciamo a leggere un po' il simbolo che c'è dietro al discorso, possiamo comparare il film alla nostra vita e perciò la regista, la regia a noi stessi. Ognuno di noi deve diventare in qualche modo il regista della propria vita. Diana, cosa hai scoperto rispetto a questo curioso abbassamento della presenza di donne dietro la macchina da presa nel corso del tempo? Beh, i dati, ci sono dei dati molto interessanti in relazione alla donna regista e perciò oltre appunto a questo disequilibrio numerico c'è ad esempio la maggior parte delle registe donne, tantissime registe donne realizzano una sola opera, dopodiché si fermano e non proseguono nel lavoro. Tantissime registe, un'altissima percentuale deriva, proviene dalla recitazione, perciò tantissime registe fanno prima le attrici e poi approdano alla regia. C'è ad esempio un altro dato, un elevato numero di registe sono nel campo del documentario e non della fiction, dei film in generale, perciò ci sono dei dati interessanti che non vengono ancora, non sono ancora così tanto conosciuti e studiati, nel senso che in Italia più che altro gli studi di genere sono un po' indietro. E in particolare gli studi di genere nel campo creativo sono molto indietro, cosa che invece ad esempio in America non è, perché in America ritroviamo addirittura nelle università le cattedre di Women Studies, qualcosa qua inimmaginabile. Oltre al genere, qual è secondo te il filo rosso che potrebbe idealmente unire questi i lavori di queste autrici? C'è sicuramente una sensibilità, una sensibilità tra tutti i lavori, che è molto complicato se dire che appartiene alle donne o meno. Forse sì, appartiene alla femminilità in generale, però poi in realtà quello che penso è che in ognuno di noi esista una parte femminile e maschile, perciò poi sarà preponderante l'una o l'altra in ogni regista, in ogni persona. Che ne sarà cioè, rispetto all'uscita oggi in sala, volevo chiederti in quante copie esce e quali sono le strategie distributive che avete scelto? Allora, il regista viene distribuito da una piccola casa di distribuzione torinese che si chiama L'Altro Film, uscirà all'incirca in una ventina di copie in tutta Italia tra prima e seconda battuta, a Roma esce al Cinema Film Studio di Trastevere e abbiamo ideato, così inventato una mini rassegna molto interessante, nel senso che ogni giorno da questa sera fino a martedì sarà presente in sala una regista diversa che ha partecipato al documentario. Questa sera ci sarà Donatella Maiorca, che tra il primo e il secondo spettacolo, perciò lo spettacolo delle 18:30 e lo spettacolo delle 21, presenterà il backstage di Viola di Mare e incontrerà il pubblico, parlerà col pubblico. Senti, la lametta del sottotitolo? La lametta, appunto, quello che dicevo prima, mi è giunta questa immagine di alcune donne che proprio fisicamente dialogavano appoggiate su di un tavolo, ad un tavolo a forma di lametta, per simboleggiare proprio il sottile limite che ci può essere tra obiettività e lamento, obiettività e appunto e non obiettività. Senti Diana, c'è un sito internet di riferimento per saperne di più su questo lavoro e sulla tua opera in generale? Sì, allora www.altrofilm.it/registe oppure la pagina Facebook che è Registe Film. Benissimo. Allora, un abbraccio e un in bocca al lupo. A presto. Grazie. Ciao. Grazie Diana. Mille. Ciao. A presto. Ciao. Ciao. Diana Dell'Erba, regista del documentario Registe, dialogando su una lametta in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Con noi Francesco Notarangelo della Nomad Film per presentare il film Il Superstite in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo e poi in una serata evento al Teatro Valle Occupato martedì 11 marzo. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuti a voi. Allora, partiamo direi dal film. Cos'è Il Superstite? Allora, Il Superstite è l'opera prima di Paul Wright, che è un regista scozzese che approda il suo primo lungometraggio dopo aver vinto diversi premi come regista di cortometraggi. Il Superstite parla di questo ragazzo che in un incendio di pesca ha perso suo fratello e altre 5 persone, quindi per cui si ritrova a dover combattere contro il popolo scozzese di questa cittadina scozzese e una maledizione che lo porterà a vagare in mare aperto per sconfiggere il mostro che secondo lui ha rapito il fratello. Allora, dicevi un giovane regista esordiente, anche molto disponibile, raccontaci un po' di lui, Francesco. Sì, allora, come diceva, un giovane regista scozzese che si è aggiudicato diversi e più importanti premi della cinematografia scozzese. Con Il Superstite è riuscito a vincere il premio BAFTA 2013 per la Scozia e il suo film è stato presentato al Festival di Cannes durante la settimana della critica. Fatto strano del Superstite, o meglio molto particolare, è il fatto della distribuzione, poiché tramite un progetto innovativo presenteremo appunto Il Superstite, che esce stasera, in diversi stati europei, sì, grazie al progetto Tide Experiment, che attraverso il modello Date and Date riusciremo a distribuire il superstite in Francia, Scandinavia, Grecia, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi, lo stesso giorno, quindi stasera. Senti, il superstite, si parla di una piccola comunità di pescatori, c'è un clima sottile e diffuso di violenza e anche un clima onirico. Ecco, volevo chiederti quali sono le qualità di questa pellicola che vi hanno spinto a distribuirlo. Beh, perché fondamentalmente è sorprendentemente originale, sì, ed sì, è immerso in un'atmosfera molto ossessiva che appunto condurrà Aaron, il protagonista del superstite, a dover combattere contro una fobia che è il mare aperto e contro la cattiveria dei pescatori, sì, poiché sì, lo ritengono l'unico responsabile dell'incidente di pesca. Oh, vi eravate imbattuti nel superstite in che occasione? In qualche festival? Durante il festival di Cannes, sì, poiché come saprà c'è una settimana dedicata alla critica e appunto, sì, il superstite è stato presentato. Poi volevamo, diciamo, esporre i nostri orizzonti riguardo questo progetto innovativo che speriamo possa avere un seguito. Sì, ecco, proprio a questo proposito, Francesco, la Nomad Film, la ricordo anche per la distribuzione di un film molto importante e interessante, This is England. Ecco, qual è un po' la vostra storia? Sì, allora, come sai, noi preferiamo sempre prodotti di qualità e di un certo spessore culturale. Sì, sì. Magari prodotti che le grandi distribuzioni non prendono, poiché sanno che magari il responso del pubblico non è proprio ottimale. Noi cerchiamo di indirizzare quindi la nostra attenzione verso prodotti di qualità e di un certo spessore e di divulgarci a un pubblico prettamente cinefilo, che possa conoscere, possa apprezzare valori come quelli del superstite e immergerci in questo sogno ad occhi aperti, che è molto molto emozionante. Senti Francesco, ecco, a proposito di emozioni, più o meno che numeri avete rispetto alle scelte distributive? Quanti film proponete abitualmente? Ah, guarda, dopo il superstite sicuramente usciremo con altri tre film, due commedie francesi, giusto per, diciamo, rompere il filo di aprire un po' i propri orizzonti, e poi usciremo con un film polacco su Valesa, quindi distribuiamo all'incirca sui 6-7 film all'anno, sì, sì, sì, sempre prodotti di ottima qualità. Oggi dicevi per l'uscita in sala a livello europeo, in Italia in quante sale uscirete? Diciamo che stiamo cercando di coprire il maggior numero di sale italiane, però sì, abbiamo diverse difficoltà, immagino. Quindi sicuramente usciamo l'11 marzo al Teatro Valle, per cui invito il pubblico che sta ascoltando a venire. Poi stiamo prendendo accordi con altri cinema qui di Roma, e le città al momento coperte sono Pescara, Padova e Catania. Mm-hmm. Oh, proprio per la serata al Teatro Valle occupato, si pensava a una serata evento con chiaramente la presenza di voi della Nomad Film e un qualche tipo di intervento del regista o scritto oppure in collegamento Skype, giusto? Sì, giusto. Mm-hmm. Sì, noi abbiamo già fatto un breve intervento quando era all'incirca 2 settimane fa con il regista, nel quale il pubblico poteva porre le proprie domande appunto a Paul Wright. Vorremmo fare una cosa di questo genere, però vediamo se riusciamo. Bene, siamo in forze, siamo. Allora, ricordiamolo, il film Il Superstite di John Wright, in uscita oggi è giovedì 6 marzo e poi una serata evento al Teatro Valle occupato la prossima settimana, martedì 11 marzo alle ore 21. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie ciao. Mille. Ciao. Vedete. Francesco. Francesco Notarangelo della Nomad Film per l'uscita in sala del film Il Superstite al Teatro Valle occupato anche martedì 11 marzo prossimo. È con noi Gianni Amelio, regista del film Felice chi è diverso, in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Gianni, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, come stai? Tutto bene, noi ci eravamo sentiti, ricordo, l'ultima volta per il tuo ultimo film. Il Primo Uomo, e stavolta un documentario. E sì. Come viene fuori? Allora, viene fuori da un'indignazione, viene fuori dalla constatazione che purtroppo c'è ancora un lungo cammino da fare verso la civiltà, verso la libertà della persona. È un documentario che credo sorprenderà molto e scioccherà i più giovani, perché c'è del materiale che a rivederlo oggi, devo dire, fa male, e ci si chiede: ma come è stato possibile che siano accadute queste cose, cioè che ci sia stato questo fango buttato addosso a degli individui. Mi riferisco a tutto il materiale di repertorio che compone gran parte del documentario, che si riferisce ai mezzi di comunicazione degli anni 50 e 60 soprattutto, no? E intendo ovviamente giornali, ma anche cinegiornali, qualche brano televisivo, qualche sequenza di alcuni film. Queste cose che allora passavano anche con una risata o un sorriso o una risataccia, e adesso sono agghiaccianti. Allora, io, partendo da questi materiali che avevo visto all'Istituto Luce nell'archivio, ho voluto raccontare la vita delle persone nel loro privato, cioè cosa poi corrispondeva nella realtà a questi insulti, a queste parole pesanti e a queste sguaiataggini che venivano raccontate sugli omosessuali. Sì, ecco, sì. Quindi poi ci sono 20 ritratti, 20 racconti di vita di 20 persone omosessuali che hanno vissuto la giovinezza in quell'epoca. Ci sono due persone che conosciamo tutti molto bene: uno è Paolo Poli, l'altro è Ninetto Davoli, e poi però gli altri 18 sono individui nascosti, diciamo, persone che ho pescato in provincia, che fanno mestieri come tutti gli altri, cioè non sono parte del mondo dello spettacolo, del mondo dell'arte, eccetera. Quindi, come diceva Sandro Penna nella poesia che dà il titolo al documentario, felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli diverso. Che può significare tante cose, però può anche significare che bisogna certe volte fare leva sulla propria diversità, perché ci protegge dalla sconfitta, ci protegge dal conformismo, dalla mediocrità e soprattutto dalla paura che poi fa nascere l'omofobia, che è un altro aspetto che io prendo in esame del documentario. Sì, sì. Ho due cose, Gianni. La prima è che in molti dei ritratti che hai curato viene fuori una sorta di serenità nel vivere la propria condizione, sia a livello privato che pubblico comunque. Sì, sì, sì. Cioè, io credo che le due cose non devono essere separate mai, perché ad ogni atto pubblico corrisponde, a ogni manifestazione visibile corrisponde poi un'interiorità, corrisponde una vita che uno vive fra quattro pareti, ma che comunque è qualcosa di cui inevitabilmente poi si deve dare conto alla società. E quando la società diventa aggressiva, quando diventa nemica dell'individuo, allora davvero c'è una guerra che non finisce mai. Purtroppo noi crediamo di aver superato tante battaglie, ma qualche battaglia forte ancora si deve combattere. Sì, questo emerge soprattutto nel ritratto finale del ragazzo più giovane. E, insomma, ci sono parecchie analogie con le storie raccontate prima, e anche però un'apertura un po' differente, e sembra anche, ecco, in questo senso un'apertura rispetto al giorno d'oggi. È chiaro che da quando io lascio il discorso, che sono più o meno gli anni 70, metà degli anni 70 a oggi, sono cambiate tante cose, la realtà è un'altra, però non è scomparsa quella che è la disgrazia più grande, cioè il fatto che esista ancora la capacità che qualcuno ha di offendere l'altro, il cosiddetto diverso, che non è solamente il diverso come orientamento sessuale, ma sì, può essere il diverso da tutti gli altri punti di vista, anche l'ostilità verso l'estraneo, verso lo straniero, è qualcosa che fa parte di una violenza di cui dovremmo liberarci e di cui non ci liberiamo. E anche il bullismo, per esempio, quello che porta poi al suicidio il 14enne che si sente bersagliato dai compagni di scuola, ecco, cose che riguardano anche le donne, non so, c'è un cammino di civiltà che ancora è faticoso da fare. Mm-hmm. Ecco, questo è il mio... Ecco, proprio a proposito di violenza, e lo dicevi all'inizio, c'è molto materiale di repertorio nel raccontare le storie a partire proprio dagli anni 50 e 60. Ecco, la cosa che mi ha colpito è la violenza che si... La cattiveria di tante espressioni, sia registrate, c'è l'audio, che anche di cose scritte. Molti quotidiani dell'epoca erano imbevuti di questa cultura, che ha una violenza che ha si ammanta di un'etica, e quindi che si sente superiore rispetto a quello che giudica. E non solo, ma si sente anche nel diritto di escludere l'altro dalla vita civile, no? Voglio dire, l'omofobia non si limita a tollerare, che già è una parola, sì, secondo me tutta da rivedere, certo, ma usa violenza, nel senso che verso il diverso si ha una ostilità già a priori, e quindi lo si cerca di escludere dal consorzio sociale. Io penso soprattutto, proprio parlando di omosessuali, a un omosessuale che faccia oggi l'insegnante in una scuola media, in una scuola elementare, in provincia, dove ovviamente magari certe cose sono ancora più deformate, dove magari si confonde l'omosessualità con la pedofilia, cioè dove davvero la vita di un individuo può essere davvero calpestata in un modo, diciamo, apparentemente meno violento di quello che succedeva negli anni 60, però altrettanto drammatico, ecco. Sì, sì, sì. Poi in tutto questo nel film si vedono anche delle storie di vita felice, delle storie di persone risolte, di persone, sì, sì, che in realtà hanno vissuto e vivono la loro condizione in una maniera giusta, onesta, con lealtà reciproca, ma anche con grande apertura verso il resto del mondo. Mm. E quindi non si capisce perché persone così pulite debbano poi essere calpestate in un altro modo. Mm-hmm. Ecco. Quali sono stati i tuoi criteri di scelta rispetto agli ospiti del tuo lavoro? Ma devo dire che non c'è molto materiale buttato via rispetto a quello che ho girato. Io ho girato poco, nel senso che è un film fatto da 4 persone, perché eravamo una troupe piccolissima, e girato in 48 ore, nel senso che io ho 48 ore di girato con 20 racconti, 20 ritratti di vita e nient'altro, quindi non ho sprecato né del tempo né del materiale, però ho fatto insieme a un mio collaboratore delle ricerche in sede di preparazione, quindi abbiamo, attraverso anche associazioni oppure conoscenze, amici, avvicinato delle persone che avevano anche voglia di parlare e che avevano anche però soprattutto delle vite da raccontare, sì, ecco, le vite degli altri, che in qualche misura aiutano noi a vivere la nostra vita. Mm-hmm. Gianni, da oggi nelle sale, in quante copie? Ah, beh, credo che sia un miracolo se arriva a 20, perché il documentario, come tu sai, è un bene prezioso, però è una cosa che si dà a piccole dosi, insomma, quindi è già un miracolo che esca nelle sale. Io spero nel passaparola, mi auguro che i primi spettatori che andranno a vederlo mandino anche qualche amico, qualche conoscente. Sì. Insomma, vedremo. È un regalo comunque il fatto che sia arrivato in sala. Certo. Spero che sia proiettato anche nelle scuole e magari anche qualche chiesa, così chi di dovere capisce anche come guardare le persone. Bene. Gianni, è stato un piacere, io ti abbraccio. Anche per me. A risentirci presto. Ciao. E grazie ancora. Ciao Gianni. Ciao. Gianni Amelio, regista del documentario Felice chi è diverso, in uscita in sala oggi giovedì 6 marzo. Di nuovo con noi Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare dell'uscita in sala del film Chocó da oggi giovedì 6 marzo. Paolo, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a voi, grazie di avermi chiamato anche questa volta. Allora, Chocó, ho avuto modo di vederlo proprio ieri sera, raccontacelo un po', soprattutto per chi ci ascolta chiaramente. Chocó è il nome di un distretto del nord-ovest della Colombia, uno dei distretti più poveri di questo paese, ed è anche il nome della donna, della protagonista, che vive una storia in un villaggio di molto povero, in cui ci sono molte miniere d'oro sfruttate in modo diverso, chi in modo tradizionale, chi in modo anche dannoso per l'ambiente, e poi vive una situazione di difficoltà nella sua famiglia col marito e due figli, perché il marito in realtà dissipa le poche risorse finanziarie che hanno bevendo e giocando a carte, ed è anche violento con lei. Ecco, le sue difficoltà sono queste, però lei lotta anche lavorando in tutti i modi per cercare di portare avanti la famiglia e cercare di portare di far avere un'istruzione ai figli e poter vivere una vita di libertà. La sua storia è una storia di lotta per la sua libertà, ma il film è molto come dire soave, non è uno di quei film in cui la violenza fa parte dello spettacolo, ma la violenza in qualche modo sottesa, anche se si nota, si vede in alcuni casi, ma quello che si vede di più è la lotta di questa donna che lavora, ha molta fede religiosa e soprattutto ha molta cura dei suoi figli. Naturalmente è una storia, è una finzione, quindi c'è una storia con un epilogo e un finale che naturalmente non sveliamo e che si può seguire vedendo il film. Il film è anche molto breve, con la sua asciuttezza, la sua semplicità da questo punto di vista, è un film che dura 80 minuti, in 80 minuti racconta questa storia, che è un po' anche la storia di questo distretto, di questo villaggio che appunto portano lo stesso nome. Paolo, dove avete incontrato Chocó e come avete poi deciso di distribuirlo? Chocó lo abbiamo incontrato al Festival di Berlino, nella sezione Panorama. Questa attrice, che tra l'altro è un'attrice molto brava e molto bella, un'attrice adesso lanciata in Colombia e che dà anche un volto forte a questo film. Il regista è un regista nero, tra l'altro c'è anche il tema degli afrocolombiani, e il regista in una dedica dice che ringrazia i suoi genitori per avergli insegnato che essere nero è un miracolo. Ecco, quindi questo elemento anche dei neri colombiani, che per la prima volta hanno portato un film a livello internazionale, un festival importante come quello di Berlino. Poi ha vinto il premio del pubblico al Festival di Cartagine in Colombia ed è stato anche in concorso al Milano Film Festival. A noi interessava poter portare questo tipo di cinema colombiano, anche di buon impatto emotivo per il pubblico, quindi abbiamo inserito nel nostro listino questa storia, quest'opera, insomma, che ritengo appunto per questi motivi molto interessante e suggestiva. Una storia di riscatto al femminile, non credo sia un caso che esca a ridosso dell'8 marzo. Ah beh, no, certo, infatti l'uscita è stata proprio per rendere omaggio a questa lotta, storia di riscatto al femminile in un territorio, in un ambiente che è diverso dal nostro, e quindi anche che serva anche da conoscenza di come le donne lottano in altri territori diversi dal nostro europeo, ma alcune tematiche, alcune difficoltà sono simili al nostro contesto. In Italia non si fa altro che parlare negli ultimi tempi di femminicidio, purtroppo giustamente se ne parla, e naturalmente il problema della violenza sulle donne è anche riproposto da questo film, con appunto un'ambientazione, un contesto diversi, ma la sostanza ci accomuna, ecco. Sì. Paolo, due cose in chiusura: in quante copie esce, e poi c'è un sito internet, un vostro sito internet di riferimento per saperne di più? Sì, dunque il sito internet è sempre quello cineclubinternazionale.eu, e c'è la pagina Facebook del film, facebook.com Sciocofilm. Per quanto riguarda le copie, sono una ventina di copie che uscirà da oggi in molte città italiane, tra cui Roma, Milano, Ancona, Cagliari, Bari, Agrigento, e poi la prossima settimana si aggiungeranno anche Firenze, Pisa, Trieste e via via altre, e quindi insomma contiamo, come al solito, nel giro di alcune settimane di poter raggiungere un po' il territorio, ecco. Bene, Paolo, un abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Grazie, grazie a voi e buon lavoro, buona continuazione. Ciao Paolo. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per l'uscita in sala del film Chocó da oggi giovedì 6 marzo. Chiara Boffelli, direttrice della 32esima edizione del Bergamo Film Meeting dall'8 al 16 marzo. Chiara, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, noi ormai un po' raramente ci occupiamo di festival, ma ci sono alcuni di cui parliamo ogni anno perché sono a misura d'uomo, perché sono storici, perché sono della provincia, e allora il Bergamo Film Meeting è uno di questi, 32esima edizione. Come si caratterizza, Chiara? E come ormai da tradizione, il nostro festival si occupa di cinema d'autore, cinema d'essè in particolar modo, e avremo come al solito un programma, diciamo, diviso un po' a metà. Per il nostro zoccolo duro di cinefili, le retrospettive storiche, quest'anno dedicata, la retrospettiva più grossa è dedicata all'attore inglese Dirk Bogarde, e invece per la fascia soprattutto serale una sorta di vero e proprio divertimento con la screwball americana anni 50, 40-50, che arriva poi fino agli anni un po' più recenti, con per esempio il film Ma papà ti manda sola, What's Up Doc di Peter Bogdanovich. Da qui abbiamo poi preso il titolo per l'intera retrospettiva. Abbiamo poi anche una parte di festival che si avvicina molto di più al presente, con la sezione sui documentari, il concorso che presenta opere prime in anteprima italiana, e una parte dedicata all'Europa con tre personali, vere e proprie personali complete, a tre registe europee che analizzano un po' i temi della contemporaneità. Oh Chiara, quante opere, che mole di opere presenterete al festival, e più o meno da quanti paesi? Allora, noi presentiamo quest'anno più di 100 film in 9 giorni, infatti è una vera e propria maratona quella di Bergamo Filmiti. Noi iniziamo la mattina intorno alle 9, si finisce quasi sempre intorno alle 2 di notte. Tra l'altro non prevediamo repliche se non per i film in concorso, in più il venerdì sera abbiamo anche la tradizionale fantamaratona, e quindi si finisce dopo le 4 di mattina. Copriamo una trentina di paesi, forse di più, soprattutto un'attenzione all'Europa, ma poi in particolare poi con la retrospettiva sulla Screwball anche poi degli Stati Uniti. Oh, per saperne di più, il programma in rete dove si può trovare? Si trovano tutte le informazioni sul sito bergamofilmmeeting.it e lì è possibile appunto consultare il calendario, vedere i luoghi del festival. Abbiamo 3 sale quest'anno e avere tutte le informazioni riguardanti la programmazione. Benissimo, contenta di questa 32esima edizione? Ha una sua storia, insomma, ormai il festival. Sì, siamo uno dei festival più vecchi d'Italia, con una tradizione ormai più che collaudata, e una manifestazione che ha sicuramente un respiro nazionale, anche internazionale. Abbiamo diversi ospiti anche del pubblico che vengono da fuori, ma è una manifestazione poi che si sta radicando sempre di più sul territorio, perché tantissimi sono diventati gli eventi collaterali, anche diciamo di tipo ludico, sociale, che animano un po' la città, un po' la monotonia di questa città, che invece in questi 10 giorni torna a vivere parecchio. Tutte le sere nelle zone del festival ci sono diverse attività, concerti, per cui siamo molto soddisfatti. Credo che anche quest'anno sarà una bella edizione. Bene, allora Chiara, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, un abbraccio a voi. Ciao Chiara. A presto. Chiara Boffelli, direttrice della 32esima edizione del Bergamo Film Meeting dall'8 al 16 marzo, e con lei chiudiamo questo appuntamento settimanale con il cinema. Visionari il giovedì dalle 14 alle 15 su Radio Onda Rossa. Le informazioni le trovate sul sito della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari e l'indirizzo di posta elettronica, che è visionari@ondarossa.info, per le vostre comunicazioni. Alla settimana prossima.